Bene, siamo in conversazione con Ben Pierce, un vecchio amico, anche una vecchia conoscenza da Madison, Wisconsin. Oggi lo sto intervistando da casa nostra il 16 marzo, mercoledì 2011, verso le 14:50 all'incirca del pomeriggio. Le 13:50 a Madison. Bene, adesso gli porgerò delle domande e poi tradurrò al mio meglio. Ok, Ben, tell us a bit about yourself, like you told me before, and how you came to be involved in the movement. Well, okay, my name is Benjamin Pierce. I'm a professional dishwasher and occasional poet. I am a 20-year resident of Madison, Wisconsin, and I've been participating in the protests from the second day. Okay, And I'm sorry, I have to translate in a moment. Allora, dice, beh, mi chiamo Ben Pierce, sono un residente a Madison da 20 anni, faccio il lavapiatti di professione, ma sono anche occasionalmente un poeta. Quello che posso anche sottolineare io, perché siamo stati molto fortunati su una rivista in cui lavoro a pubblicare per l'appunto le sue poesie, che sono anche disponibili in rete. Ed è stato coinvolto dal principio in questo movimento per l'occupazione del Campidoglio. Sorry, continue, Ben. Yes, I've been involved in the protests for the same reason as most other Wisconsinites, because there's really no choice. Everybody will be affected. This is a catastrophe on an historic scale, even if we succeed in overturning it. Okay, I'm sorry to interrupt again. So I can remember everything that you've said. Sure. Allora, è stato coinvolto, cioè ha cominciato a coinvolgersi dall'inizio perché vedeva come la maggior parte della gente che si è coinvolta in questo movimento la portata enorme di questa legislazione storica che distruggerebbe una fetta enorme del sindacato che rimane, del potenziale sindacato che rimane. Quindi, dato che, come vede lui, e moltissime altre, che si tratta di un attacco non solo ai sindacati, ma a tutti quanti e tutte quante vivono nel Wisconsin, e anche data l'enorme esempio che potrebbe anche incidere sul resto degli Stati Uniti, allora ha deciso di partecipare, nonostante non faccia parte di nessun sindacato, nonostante sia in un tipo di posto di lavoro in cui non c'è sindacalizzazione. Sorry Ben, could you also say something about how you sort of even heard about it and then came to be involved, or was it something rather spontaneous that you just happened to be in the right place at the right time, or could you elaborate on that? Well, it was spontaneous for all of us in one regard. Nobody was expecting this except a handful of billionaires, our governor, not even all of the Republican politicians in Wisconsin knew this was coming. And as soon as the first suggestion of it was made, it was all over the news. It's the only news happening in this state right now. So I had only to get up in the morning and put my shoes on to be involved. Let me translate that. Allora, gli ho chiesto com'è che poi si è coinvolto, è stata una cosa spontanea oppure era già a conoscenza dei fatti? Beh, quello che dice è che è stata veramente spontanea la situazione, perché nessuno si aspettava che il governatore proponesse una simile legislazione, dato che poi in campagna elettorale non aveva menzionato nulla al proposito, e allora proprio si è trovato a Madison, si è sparsa la voce immediatamente dopo che è stato fatto quell'annuncio del governatore, dopo che è anche apparso il tutto anche nelle notizie locali e anche nei giornali locali, nella stampa, e allora si è subito messo a disposizione per l'occupazione del Campidoglio. Right, Ben. So, I guess we're just basically moving into the second question about how the entire affair has gone. And I know you've already summarized quite a lot to me, but I guess if you could do it, I guess in this recording as well, that'd be fantastic. And summarizing for all of us what happened so far in the background prior to the occupation and reoccupation of the capital. And I'll just translate that question, and then we can move on to how you respond. Is that okay? That's fine. All right. Allora, la domanda sarebbe cioè di farci il sunto di quello che è accaduto finora, prima, durante e dopo l'occupazione del Campidoglio. In pratica, cos'è che è successo finora? Right, go ahead then, thanks. Yes, well, I suppose the earliest I can begin, since this is truly unprecedented, is in November, when our governor won his post with under a 2% margin with a less than 50% voter turnout, so he has no mandate. Okay, let me just, before I forget, those are very important, I guess, points that you're making immediately. So let me just summarize them in Italian. Prima di tutto, infatti, risalgono a novembre, quando fu eletto il governatore Walker con meno del 50% dell'elettorato, con 2% di scarto, quindi non ha neanche veramente un mandato legittimo. Please continue, thanks. And so he puts out this budget repair bill. This is a standard piece of legislation that many governors have passed when a projected budget does not meet the realities. You have to balance the budget. But this is a fiscal item, and the 120 or so or provisions are not fiscal, and they begin, of course, famously, with repealing collective bargaining rights for state workers. Okay, hold on. Allora, infatti, allora, sì, risalgono anche a novembre con la mancanza di un vero e proprio mandato che lo legittimi, ma poi tutto un tratto tira fuori questa manovra per correggere le finanze dello Stato del Wisconsin, che ritiene siano in stato di collasso, che poi rivedremo poi dopo di cosa si tratta esattamente, però introduce un centinaio o 120 proposte che non hanno niente a che fare con il pareggiamento delle finanze pubbliche, tra cui prima di tutte questa legge antisindacale di cui parleremo di più in dettaglio. Sorry Ben, continue. In fact, his predecessor, a mediocrity named Jim Doyle, left the state with a small surplus, but the tax breaks for wealthy corporations that Governor Walker proposed do in fact create a deficit over the next 2 years. Okay, let me continue then. Bene, il governatore Doyle, democratico, che ha preceduto Walker, aveva addirittura lasciato un'eccedenza di fondi allo Stato, quindi non, cioè è una menzogna plateale quella in cui si sostiene che lo Stato del Wisconsin ha una carenza di fondi e un buco finanziario, anzi tutt'altro. Però il governatore Walker ha cominciato a tagliare le tasse per i più ricchi, i più abbienti della società wisconsiniana, e così si è creato il buco finanziario che poi serve da scusa per introdurre queste norme. Go ahead, Ben. In fact, there's a laundry list of items on this bill. For example, making the Department of Health Services have direct authority over the benefit levels of people receiving various kinds of assistance. This is completely unprecedented. The head of the DHS will be a political appointee by the governor. There are similar moves being made with our environmental agencies. I might add on a human note before I pass on that many cancer patients who receive aid anticipate an early death as a direct result of the severe budget cuts and the move to control by political appointees of the Department of Health Services. Okay, let me continue then with the translation. Non solo c'è la legislazione antisindacale proposta, ma tra le tante proposte in questa norma che hanno poi varato recentemente, ci sarebbero delle proposte di controllo diretto del servizio sanitario, per esempio, e anche dei servizi per la tutela dell'ambiente, direttamente da direttori, da persone che sono nominate, che sono scelte dal governatore stesso, il cui è senza precedenti nello Stato del Wisconsin e cioè concentra enormi poteri in poche mani, e in particolare nelle mani del partito tuttora in governo, e specialmente con il governatore Walker stesso. E questo con l'aggiunta dei massicci tagli anche alla sanità, come spiega Ben, per esempio pazienti che soffrono di cancro, potrebbe valere in pratica una pena di morte, perché, o una morte precoce, perché i tagli finanziari negherebbero a loro il servizio sanitario di cui hanno bisogno. Thanks Ben for waiting. No problem. One last thing I'll add in the laundry list of legislative offenses in this bill is that there are some state-held power plants which are now open to no-bid sales and auctions for a very few. It's hard to even get information on who will be bidding on these plants or actually buying them directly. Wow. It's no accident that some of his greatest contributors are in fact billionaires in the energy business. Cool. All right, let me continue with the translation then. Tra le tante offese di questa legislazione per dire, cioè, alla buona, per cercare di fare questa facciata riguardo il buco finanziario da pareggiare, tra queste tante offese c'è addirittura una serie di appalti, per l'appunto appalti nel settore energetico, nella gestione degli impianti a carbone per la produzione elettrica, e questi sono degli appalti molto segreti. In pratica è difficilissimo riuscire a trovare informazioni su chi parteciperà all'asta per questi appalti, e apparentemente questo è per consentire a coloro che hanno contribuito enormemente alla campagna elettorale, con fior di quattrini, alla campagna elettorale di Walker, di avere come ricompensa le preferenze per accaparrarsi gli erogatori e anche le centrali elettriche del Wisconsin. Quindi tutto fa parte di questo pacchetto della finanziaria che è stata varata recentemente. Thanks Ben. Sure. So my last comment in that regard is this is of course to be a wholly fiscal piece of legislation, and I have so far not named one fiscal item. The laundry list goes on for about 120 more items, few of which have anything to do with, in fact, balancing the red and black ink in the budget. Let me translate that as well. Quindi lui, cioè Ben dice giustamente, ovviamente, queste norme, queste proposte sono puramente strane al pareggiamento dei conti pubblici. Infatti delle 120 proposte che fanno parte di questa nuova questa norma finanziaria, proprio pochissima hanno a che vedere con il pareggiamento dei conti pubblici. Thanks Ben. Okay, where would you like me to move on from there? Yeah, let's see about summarizing what happened, how the capital was occupied, and then sort of the events of the occupation of the capital, and then I guess what is going on now in terms of protests. Yes. Well, the occupation, like many aspects of the protest, happened organically. There is some central organization, but really a very diverse and numerous group of people across the country, and not just the state, find themselves unified and newly empowered. Allora, gli ho chiesto com'è che è andata l'occupazione del Campidoglio, e come si è svolta e cosa sta succedendo tuttora. Beh, lui sta cominciando, cioè Ben comincia con dire che è stata organica, in pratica l'organizzazione, è venuta proprio dal basso, l'occupazione, e però c'è stato anche un intervento più centralizzatrice, cioè da altri raggruppamenti, come per esempio i sindacati stessi, e così si è svolta un po' l'organizzazione, in parte dal basso, spontanea, sviluppatasi organicamente, e in parte con degli interventi da gruppi più organizzati, anche, cioè in generale, e magari anche organizzati per manifestare al di dentro del Campidoglio di Madison. Thanks, Ben. The roots of the occupation really has to do with the flight of 14 Democratic senators who left the state so that they could deny the state Senate quorum with which to at least delay the passage of, you know, this monstrous piece of legislation. Right, let me translate that. L'impeto principale dell'occupazione risale alla fuga dei 14 senatori democratici che per come dire, ritardare il varo di questa legislazione orrenda, fuggirono, cioè, dallo Stato, erano anche ricercati dalla polizia per forzarli a votare, perché così, senza la loro presenza, il Senato non avrebbe avuto abbastanza senatori per poter svolgere una votazione che fosse legale, e quindi la fuga di questi 14 senatori è stata cruciale, e per arrivare alla loro difesa anche questi manifestanti si sono presentati, hanno occupato il Campidoglio, hanno formato addirittura un'assemblea di cui magari parleremo più in là. Thanks. While the senators were hiding in Illinois, the state to the south of us, we occupied the Capitol. This was under the pretext of public hearings, which were conducted about 18 hours a day, I think, for close to 2 weeks. This was done by the Assembly, which is the body that must approve of a bill before it can pass on to the Senate. Okay. Il tutto fu organizzato sotto un tipo di permesso che si ha di occupare il Campidoglio per svolgere assemblee legislative che comunque avverrebbero. Hanno fatto coincidere questa assemblea legislativa con la fuga dei 14 democratici nell'Illinois, che si trova a sud del Wisconsin, è lo stato un pochettino più vicino a Madison stessa, e così, portando avanti questa assemblea, che dovrebbe essere il punto di partenza di qualsiasi legislazione prima che viene considerata per le votazioni al Senato, hanno usato questo meccanismo per temporeggiare per settimane, un paio di settimane, fino a che magari non riuscissero a far cambiare idea al governatore, e nel frattempo anche da fare da scudo legale, in certi sensi, per l'assenza dei 14 senatori stessi. Thanks, carry on. Yes, as far as the occupation itself, it consisted of protests under the dome itself, which is a great echo chamber, as well as, you know, being an elegant place of marble and paintings. There was drumming going on, there was very fervent chanting going on, and periodically very common people would step up to the megaphone, explain how this legislation would affect them and their family. There were great thanks to the teachers who stand to be affected, and immediately the firemen and the police came, their union representatives. It's important to point out that their unions would not have been immediately affected by this legislation. They could have been divided from us, but instead they've come forward and said that they will stand in solidarity with us to the end because they know that they are next. Thanks. Allora, c'era un'atmosfera di festa che poi si sviluppò all'interno del Campidoglio, un Campidoglio che poi è anche un posto abbastanza bello anche da visitare, ci sono affreschi interni, c'è la costruzione anche interna in marmo, eccetera. È anche abbastanza confortevole. Comunque in queste assemblee, in questa atmosfera di festa, c'erano anche esponenti di vari sindacati e anche politici stessi, ovviamente non i senatori che erano fuggiti, che spiegavano pure alla gente l'importanza di questa protesta, di cosa c'è in palio con questa legislazione, in pratica che cosa comporta per tutto il Wisconsin e oltre questo tipo di legislazione. La cosa da tenere in mente è anche che in questa finanziaria si escludevano due categorie di sindacati, cioè la polizia e i vigili del fuoco. Ebbene, questa ovviamente era per dividere ovviamente i sindacati tra di loro, ma anche perché apparentemente questi due sindacati avevano anche appoggiato la candidatura, se mi ricordo bene, poi chiederò a Ben, la candidatura di Walker. Quindi la parte cruciale di questa protesta avvenne quando questi due sindacati si schierarono nettamente con i manifestanti, così che questo smorzò la possibilità di non smorzò, ma evitò cioè la possibilità di una repressione di queste manifestazioni. Ben, let me just ask you this before you go on. It was my impression that the police and fire brigade, sorry, I can't remember the American English equivalent for this, unions actually had favored Walker in the elections. Is that correct? I don't know if that's true. Va bene, allora io ho chiesto a Ben se questi due sindacati che erano stati esclusi dalla finanziaria per quanto riguardava rendere impossibile qualsiasi forma di negoziato, eccetera, il diritto di contratto collettivo, eccetera, l'esclusione di questi due sindacati per l'appunto, se coincidesse con un appoggio o meno a Walker, lui non è esattamente sicuro. È una cosa che io ho sentito da altre fonti, comunque. Quindi adesso proseguiamo con Ben. Ben, can you, I guess, tell me the rest of what you were going to talk about. I'm sorry to interrupt so often, but I can't remember everything. Not at all. Oh, I quite understand. Well, as far as describing the atmosphere of the protest itself, besides the drumming and the testimony, why we had posters over two floors of the building, the ground floor and the first floor. Some of these were witty, some of these were informative, many of them were quite artistic. Palm trees were added in great palm number. Trees? That's great. Sorry. Yeah, palm trees were added in great number following the famous Fox News story that depicted a riot somewhere where there's palm trees, which would certainly not be Wisconsin. It's one of our symbols now. We had a medical station set up. We had food stations set up. This was necessary because, of course, we've received contributions of food worldwide. I believe all seven continents have participated since the scientific station at McMurdo Base in Antarctica sent us some pizzas. Wow. Let me continue then with the translation. Allora, in questa atmosfera di festa, di interventi vari, suoni di tamburo incessanti durante il giorno, si sono anche sviluppate delle altre cose molto interessanti in questa occupazione, cioè lo stabilimento di fornitori di vettovaglie, di cibo preparato per i manifestanti, anche servizi sanitari, servizi medici, e quindi si sono proprio organizzati molto bene per resistere all'interno a lunga durata. Addirittura quando Fox News, il famigerato canale di Murdoch, di estrema destra, che raggiunge in pratica decine di milioni di americani giornalmente, quando il Fox News mise in onda queste immagini di proteste apparentemente nel Wisconsin, che erano diventate molto violente, allora e nel sottofondo si vedevano delle palme, perché avevano fatto le riprese in un paese tropicale. Tra i manifestanti si sviluppò l'idea di portare delle palme anche dentro il Campidoglio, per un po' riderci un po' sopra, per dimostrare l'assurdità di questa propaganda propinata al pubblico da Fox News, che voleva ovviamente far credere alla gente che chi era all'interno del Campidoglio era gente violenta o disposta alla violenza. E allora adesso c'erano addirittura delle palme all'interno del Campidoglio. Le palme ovviamente non possono crescere nel Wisconsin, poiché, come so anch'io perché ci sono vissuto, almeno 6 mesi l'anno si sta quasi sotto zero. Allora continuiamo con Ben con il resto della conversazione. Yeah, go ahead Ben, what else would you like to add to this? Okay, we had a wonderful community during the occupation. We routinely left our valuables lying around wherever we would sleep when normal business hours would close. Nothing was ever stolen. I believe during not only the occupation but the protests, there have been a total of 9 arrests. Keep in mind these are protests that are the largest in Wisconsin's history, averaging from 70,000 to somewhere over 100,000. Let me continue with that then. innanzitutto questa manifestazione è caratterizzata da molta solidarietà. Non avevo menzionato, non avevo tradotto il resto di quello che aveva raccontato Ben per quanto riguardava addirittura il cibo che è stato mandato e altre, non solo viveri, ma anche altre cose utili per resistere, come anche magari medicinali, roba del genere, un po' da tutte le parti del mondo. Infatti addirittura sono state mandate delle pizze a loro tramite la base McMurdo che si trova nell'Antartide. Comunque, ecco, mi ero dimenticato di aggiungere questo, ma adesso passo a quello che ho appena detto, che era per l'appunto che la solidarietà era così forte che loro potevano tranquillamente lasciare qualsiasi oggetti di valore personale, oggetti personali di valore, cioè durante anche il giorno, mentre loro protestavano, durante le ore lavorative, e senza dover preoccuparsi di poi vedersi diciamo svaligiati. Tutto si svolse proprio in questa maniera, con compattezza, solidarietà spontanea, senza alcun problema. Ci furono 9 arresti, poi magari dovrei chiedere più in dettaglio di cosa si trattò, ma tutto si svolse veramente molto pacificamente, senza quasi nessuna repressione, anzi, con la solidarietà addirittura dei poliziotti stessi e anche dei vigili del fuoco. Ben, could you talk more about those 9 arrests? Well, I believe those were due to drunkenness. Ah, questi arresti furono a causa di uso esagerato di alcolici, quindi furono arrestati per quel motivo, ma non per le proteste stesse. Carry on, sorry. Yes, there's another factor though with the low number of arrests. Let me thought that the occupation might end. Let me add this to the because I forgot to translate that. It's really pivotal, okay. Like the number of people that were actually involved, and then we can go on. Queste 9 proteste, cioè questi 9 arresti, sono da paragonare alla presenza massiccia di tra decine e centinaia di migliaia di manifestanti in questo, cioè in questo piccolo luogo che si chiama Campidoglio, Madison, e quindi è proprio, anche questo è un po' senza precedenti, perché adesso devo aggiungere, poi glielo dirò anche a Ben, in passato, negli anni 60 e primi 70, ci furono manganellate, gas fumogeni, eccetera, ci fu una repressione tremenda contro i movimenti studenteschi che occuparono pure, tentarono di occupare il Campidoglio a quell'epoca. Invece questa volta con ancora più gente, ovviamente con la solidarietà della polizia, non avvenne niente del genere, e inoltre coloro che furono arrestati non aveva niente a che fare con le manifestazioni stesse. Sorry Ben, carry on. I added also that it's unprecedented maybe in Wisconsin history that you had so little by way of arrests with so many people. In fact, even just the sheer size of the protest might have been really like maybe has happened once or in Wisconsin history, if I recall, exactly. Right? And you know, comparing them to the late 60s and 70s when you had, you know, maybe attempts to do the same and people were beaten up. So if I recall correctly, in terms of Madison's history, but you got that right. Thanks. Yeah. Go ahead then. You were, and I interrupted you. Yeah. Another factor in the low arrests is our close relationship to the police. Of course. Really, I should say that we are in solidarity with the police. Mm-hmm. It's more than an alliance. It's a solidarity. For example, when we knew the occupation would soon end, and we were contemplating whether or not we would want to be arrested rather than leave peaceably, we had a rather direct understanding with the police chief that if anybody chose to be handcuffed and let out of the building but offered no violence, that they would be released and not charged with anything upon leaving the building. Because again, the police know that we're shouting for them as well. Thanks. Let me translate that. Come ho menzionato, c'è questa solidarietà con la polizia, cioè non solo alleanza con la polizia, con il sindacato della polizia, ma proprio solidarietà con i poliziotti stessi da parte dei manifestanti e viceversa, tanto che quandunque ci fosse un arresto per qualunque legge di, non so, contro l'occupazione di posti pubblici a un certo orario, si sono create intese tra i manifestanti e i poliziotti, che poi i poliziotti dopo il loro turno da poliziotto si vestivano da membri della protesta, cioè da manifestanti stessi, tanto era la solidarietà tra la gente e la polizia, e quindi se ci sono stati arresti, non sono veramente stati veri e propri arresti, la polizia, che ovviamente sono impiegati pubblici, devono fare questo tipo di lavoro, allora sono arrivate queste intese in cui se devono arrestare qualcuno dissero ai manifestanti: per favore non fate alcun cenno di violenza, così che per legge non siamo costretti ad ammanettarvi. Quindi neanche ammanettamenti accaddero, quel che risulta a noi, da quello che ne sappiamo. Ma qualsiasi scioglimento delle proteste fu interamente pacifico, ma poi tra i manifestanti c'erano addirittura poliziotti stessi, quindi si tratta di una vera e propria dilagante solidarietà, veramente quasi senza precedenti in questo paese. Tell me more then, Ben. Well, let's see. Oh, actually, let's talk about maybe a little bit more about how the occupation came to an end, and how you know the current situation, how it's connected to previous administrations. I know you've told me about it, and thanks for educating me on this and reminding me of some of the details that I've forgotten. But then, if we could just talk about how the occupation ended, or did not, I guess I'm not sure, and then how this current legislation has any connection at all with what has previously occurred besides the budget that Doyle left. Right. Well, in fact, the occupation isn't entirely over. There are no more people sleeping in the Capitol, but people are outside the Capitol every day protesting, and sometimes they sleep on the square at night. I've done this a few times. The Sheriff's Department pointedly refused to throw people out upon the first request, and they actually made a comment to the media that they were nobody's palace guard. Fantastic. Let me translate that. Allora, veramente l'occupazione del Campidoglio continua, anche se con molta poca gente, all'interno non così tanto, ma certamente davanti, proprio sulle soglie delle entrate del Campidoglio, c'è ancora gente che dorme e ben stesso partecipa a anche dormire e a manifestare davanti al Campidoglio. Ci sono state proteste ovviamente per quanto riguarda l'amministrazione di sgominare questi manifestanti, e lo sceriffo di Madison, si chiama sceriffo, cioè il capo della polizia, disse apertamente, fece una dichiarazione alla stampa in cui disse che noi non siamo i guardiani di un palazzo reale, cioè tanto per dire che noi non agiremo affinché non siamo forzati a farlo, e così non ci sono neanche stati arresti per questa continua manifestazione davanti al Campidoglio, che tuttora continua, infatti magari non è riportata nella stampa, però c'è molta gente che ancora fa queste manifestazioni e continua a farle 24 ore su 24. Yeah, and just to conclude the history of the occupation itself, the Department of Administration, which runs the building, has increased the restrictions on being able to enter what was once a very free-flowing building. It was a traffic concourse. It's widely believed that their restrictions on entering the building violate the open meetings law, and there are court cases pending. Okay, thanks. This is very important. Yeah. Allora, l'amministrazione, cioè il dipartimento di amministrazione del Campidoglio stesso, dei palazzi pubblici, e loro hanno cominciato a legiferare contro la possibilità di permanere nel Campidoglio stesso e a bloccare le entrate, eccetera. Questo però adesso viene portato in tribunale da certe organizzazioni perché infrange una legge nel Wisconsin che consente le assemblee pubbliche dentro il Campidoglio, per l'appunto, e quindi adesso questo sta diventando questa faccenda di bloccare l'entrata per occupare il Campidoglio sta diventando un caso legale contro il governo stesso statale. Thanks, Ben. I didn't know about that. That's another pivotal thing, I guess. What's going on? Could you then talk about, unless you want to say more about the occupation, we can just move to the background, I guess, yes. The general background to this. Yeah. To the legislation and everything else. Yeah. Sure. I guess I'd really start the background so much as there is any. In 1982, when President Ronald Reagan fired, or allowed to be fired, members of the Air Traffic Controllers Union, that's PATCO. Right. And this need not have happened, we realize in hindsight, had other unions only stepped forward and struck along with PATCO. Nobody stepped forward. Many of them were fired. I suppose some of them were rehired, but under significantly poorer terms. And the precedent was set, 30 years ago, where unions have been rolled back and rolled back and rolled back in the private sector. And the perception now is that the public sector unions are under attack because it's the last stronghold. Right. Let me just then give that briefly in Italian. Allora, come dice Ben, come racconta, veramente si deve risalire per capire meglio quello che sta succedendo adesso al 1982, quando Reagan riuscì a distruggere il sindacato dei piloti che indessero uno sciopero generale, però senza nessun appoggio dagli altri sindacati. A vederla adesso a distanza, con una lente storica, si vede il grande errore che fu commesso dagli altri sindacati a non appoggiare questo sciopero, perché infatti Reagan introdusse degli altri piloti, mi pare, se mi ricordo bene, da diversi reparti degli istituti militari. Certi piloti vennero ingaggiati di nuovo dopo, ma la maggior parte persero il lavoro. Quindi così cominciò un continuo dissanguarsi del sindacato nel settore privato. Quindi il settore privato perse la maggior parte del potere acquistato con decenni di lotte antecedenti, magari si potrebbe dire di 100 anni prima del 1982. Cominciò l'erosione continua dei sindacati, poi ci furono altre leggi introdotte da Reagan, eccetera, che indebolirono sempre di più i sindacati, ma fu veramente il settore privato che cominciò a erodersi, a perdere colpi, tutto l'insieme dei sindacati negli Stati Uniti. Quindi arriviamo poi negli anni 90 e negli anni 2000, in cui il settore pubblico rimane un po' la roccaforte dei sindacati, mi pare, se mi ricordo bene, magari tra 15% e 17% di sindacalizzazione, mentre invece nel settore privato penso che al massimo ci sia ormai tra il 7% e 9%, forse di meno, di rappresentanza sindacale nelle aziende. Right, I just added a little bit more information about the percentages of unionized labor in private and public sector, but yes, this is from what I recall, so you might want to correct me. I just said like something like now between 7% and 9%, if even that in the private sector, maybe 15-17% in public. I can't remember completely. That's about what I've heard quoted. Okay, thanks. So we want to continue then on the background. Well, it's been gradual. You know, we all hear many times in our lives the famous political analogy about the frog that is slowly boiled. Yeah. Indeed. But what I can't emphasize enough is, even given 30 years of this sort of erosion, this legislation is still a very sudden and shocking step downward. Exactly. Let me emphasize that while it's fresh in my head in Italian. Quello che vuole sottolineare Ben, e penso che sia da fare, molto importante, è che questa nuova legislazione, con la scusa di pareggiare il conto pubblico, non è che è senza precedenti completamente, però è un salto di qualità, mettiamola così. Mentre negli ultimi 30 anni si parla di un'analogia di una rana che viene lentamente bollita a sua insaputa, fino a che ormai è troppo tardi e ormai stenta a sopravvivere, così si dice del sindacato da queste parti, in diversi settori, questa legge in pratica fa un salto enorme, in cui nega proprio le basi stesse del sindacato, dell'esistenza stessa del sindacato, va proprio alla radice, la taglia in pratica. È questo che è veramente diverso adesso, è questo che pure ha convinto tantissima gente a partecipare alle manifestazioni, nonostante il fatto che la rappresentanza sindacale copre un numero così minuscolo di operai e operaie in questo paese. Thanks, Ben. You can continue, sorry. Okay, well, I suppose that's about it as far as the history of the thing goes. It's almost like history's taken a 90-degree turn, which is why I find it hard to comment at length. I could point to former Governor Tommy Thompson. He was two governors before this. Right. He was a Republican. He was in office a very long time. I hated him. So did I. Yeah, I perceived him as a spoilsman, you know, someone who followed President Jackson's axiom that to the victor goes the spoils. Yeah. But he always negotiated with unions. He always followed the law. He didn't have surprise votes that literally came out of nowhere on the floor, as has happened in this case. I have watched senators and assemblymen gasp and weep as a sudden vote came from a secret signal somewhere among the Republicans, and I watched them lift their fists in the air and yell shame as the Republicans have stood up and left the room en masse after their surprise vote has been conducted. This was even in the Senate, right? This was the Senate. Yeah. Even Thompson never did such a thing vaguely like that. Okay, let me translate that. Neppure i governatori precedenti, come Thompson, repubblicano, che è veramente stato molto antipatico durante la sua amministrazione di quasi un decennio, infatti l'ho vissuto anch'io quel periodo a Madison, abbastanza difficile con quell'amministrazione, ma però seguiva sempre le regole, al contrario di questa nuova amministrazione. Ha sempre avuto a patti con i sindacati, non ha mai cercato di distruggerli, quindi questa è una novità di questo governatore, e non soltanto di questo governatore, ma tutto il Partito Repubblicano, che addirittura per votare in Senato per varare questa finanziaria usò un bel po' di trucchi, in pratica anche segnali segreti per condurre delle votazioni all'insaputa di altri senatori del Partito Democratico, cioè trucchi del genere o tranelli o quant'altro non furono mai impiegati, nemmeno dall'amministrazione veramente di destra dura degli anni 90 di Thompson, che poi Thompson divenne anche un membro del gabinetto del presidente Bush, se mi ricordo bene. Ben, I'm just saying that Thompson became a cabinet member, but I can't remember what position he held. Was he health services for Bush? No, it was housing and urban development. Housing and urban development. Ecco, divenne capo settore del dipartimento del governo federale per le abitazioni pubbliche, quello che concerne quel tipo di responsabilità. Quindi fece parte anche di quel Partito Repubblicano guerrafondaio che conosciamo bene, e che poi è tanto guerrafondaio come quello di Obama, per intenderci. All right, Ben, sorry, please go on. Yes, that may really be it as far as the background goes. We're in a new era now. I feel as though, many of us in the movement feel as though history began again on about February the 9th of 2011. Thanks. When it was first announced. Right. Il sentimento generale è che proprio si è voltato pagina e c'è una nuova era che sta prendendo un po' la forma, è un qualcosa di ben diverso dalle lotte in passato e quindi cioè ci si prepara a un tipo di scontro che io potrei anche aggiungere un centinaio d'anni che non si vede. Ben, I just added that, you know, this sentiment, this feeling that you have like a 90-degree turn, like such a great change, is it's something that, you know, maybe is sort of akin to having a much, I mean, not just a different one, but a very harsher, a very much harsher battle, I guess. Oh yes, and sort of such that, you know, it sort of harkens back to the 19th century almost, but I may be exaggerating there. No, I don't think you're exaggerating. I think the general belief is that we really have to win this one. Il sentimento generale è proprio che è così importante questa battaglia che è proprio da vincere, sennò veramente finisce proprio tutto alla malora. Okay. Unless you want to add some more to this, would you like to talk about what exactly is going to change in terms of the working conditions and contractual arrangements for employees, for public employees, and what sort of salary reductions there will be, including on benefits? Okay, well, that's quite a bit. They will be harsh. Give me a second to I've actually got some notes on that. I want to be precise here. Oh, thank you very much, Ben. That's really nice of you to do. Okay. Well, estimated pay cuts will vary according to district of the state and profession. Mm. I gather that overall that affected families will take a 10-15% loss in pay as soon as this April. But this is against the context that in prior years there has been austerity. Yes, as well, even under Doyle. I lived it. I lived under the salary freeze for 4 years. Oh, oh yes, right. You were at Stevens Point, so you know what I'm talking about. Yeah. Yeah, a librarian friend of mine estimates that the new cuts, along with Doyle's last moves, leaves him at a net 30% loss. Wow. Some of this isn't straight pay cuts, though. But there's various ways of concealing or buffering what's going on. There's a wholly new requirement for state employees to contribute about 5.8% of the salaries to the state pension fund. Previously, they did not contribute to the pension fund out of their salaries. Let me stop you there so I can translate this. Allora, si tratta in pratica già ad aprile di... come media un taglio dal 10 al 15% dei salari degli impiegati pubblici, quindi in pratica effettivo immediatamente, però tutto dipende anche da quale distretto statale viene colpito e quale categoria, però in pratica quella è la media dei tagli. Però ci sono altri tagli che sono indiretti, e cioè per esempio il 5,8% del salario adesso deve essere reindirizzato per pagarsi la pensione statale, mentre prima la copertura veniva automaticamente tramite lo Stato, adesso viene tolta direttamente dai salari degli impiegati pubblici e quindi viene direttamente tramite un taglio di stipendio effettivamente. C'è anche da aggiungere che questa politica di tagli, di austerità, non è nuova, non è che viene tutto a un tratto con questa nuova amministrazione, ma risale anche al periodo di Doyle, che ho vissuto anch'io personalmente, e quindi se si aggiunge ai tagli fatti dal governo di Doyle, si aggiungono questo 10-15% di tagli e poi questo altro quasi 6% di tagli effettivi con la scusa del pagamento delle pensioni agli impiegati pubblici, si può stimare che negli ultimi 10-15 anni il taglio sarà di un 30% dei salari medi degli impiegati pubblici. Questo se si va a paragonare, per esempio, come ha citato Ben, un amico che è un impiegato alla biblioteca pubblica, che in pratica, facendo un po' i conti, sembra che proprio sia quasi un terzo del suo salario che ha perso negli ultimi 10 anni o sono. Io personalmente pure ne ho perso di salario, perché grazie a Doyle, con il congelamento dei salari, io percepivo sempre di meno, mentre l'inflazione aumentava, e addirittura i contributi per la sanità, che poi è privata qui da queste parti, ci sarebbe un altro discorso da fare su questo, ma non abbiamo tempo, ma qualsiasi altro contributo veniva ripagato con un servizio sempre pessimo e sempre più da pagare, quindi in pratica i tagli venivano anche indirettamente, come avvengono adesso, in cui si paga sempre di più per servizi come la sanità e quant'altro, servizi pubblici sempre più scarsi e servizi privati sempre più salati, con un salario che è stagnante oppure tagliato, come adesso sta avvenendo. Thanks Ben, I just added also my own experience to this, since it sort of dovetails with Doyle's austerity measures and since, certainly. So just to explain a little bit of that background, but yeah, go ahead with the other wonderful future contractual arrangements and working conditions. Yes. Well, I might add that state employees will now have the honor of paying 12% instead of 6% of their health insurance directly out of their salary. Ok, let me translate that. Adesso gli impiegati pubblici dovranno addirittura non solo, cioè come prima, pagare il 6% del proprio stipendio per avere una copertura sanitaria, che ovviamente a livello nazionale non esiste, ma adesso salirà al 12% del loro salario. Quindi mentre il loro salario viene dimezzato del 10-15%, hanno in pratica il 6% da pagare per la pensione e il 12% per la sanità. Quindi si taglia di un taglio enorme già soltanto per quanto riguarda la nuova norma varata, senza neanche contare i tagli che sono stati fatti in precedenza, prima di questa amministrazione. Thanks. I just drew this to, you know, not only the austerity measures, but now basically we have the 6% cut, you know, with pensions, the 12% cut with healthcare, and the 10 to 15% direct cut of salaries, right? So if you add it all together, I mean, what the hell? How are these people going to survive, right? That's not clear. Yeah. just as with several cancer patients in Badger care, it's literally not clear how you live. It's insane. Let me translate that as well. Okay, so allora come cavolo riusciranno a sopravvivere questi impiegati pubblici? Cioè, in pratica c'hanno un taglio enorme, un buco enorme nei propri portafogli e infatti lui aggiunge giustamente, specialmente per i pazienti di cancro o altri che soffrono e che devono cercare di pagare questo innalzamento salatissimo per la sanità, per pagare la sanità statale, non ce la faranno, non è chiaro se riusciranno a sopravvivere, cioè letteralmente questa è una condanna a morte quasi per loro, è così grave la situazione. Thanks, Ben. I just wanted to emphasize that basically it's like a death sentence for patients, for some patients, yes, anyway. Right, it is. Okay. Would you like to add more about working conditions per se, rather than just salaries? Well, since this isn't in the industrial sector, we aren't looking at any lost limbs, but right. Let's look at the teachers. Mm-hmm. I think it's understood by any intelligent or compassionate human being that a teacher can only teach so many students at one time. Class size is critical. Yeah, I know that quite well. yeah, I'm sure you would. And we're looking at layoffs of teachers. We are looking at doubling, I guess, the size of some classrooms. And it's not clear that art classes, for example, music classes, anything that isn't strictly vocational will, in fact, even survive. So I suppose at least in the very long run, there will be no art teacher worried about a swollen class size because there will, in fact, in the long projection, be no art teachers. Right. Oh, bloody hell. Let me translate that. Allora, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, non è come in fabbrica in cui uno potrebbe anche perderci un arto se peggiorano le condizioni, i ritmi di lavoro, eccetera, come per esempio sta facendo Marchion, eccetera, e altri guastatori di vite in Italia, però per quanto riguarda l'insegnamento, per esempio, aumenteranno sicuramente il numero di studenti ogni aula, quindi cioè, si tratta di licei, scuole elementari, eccetera, quindi diventerà affollatissima la classe la media delle classi che si svolgono nelle scuole. Non soltanto, ma si continuerà anche a perdere personale, cioè licenzieranno tantissimi insegnanti a tutti i livelli, quindi è un po' alla riforma Gelmini, alla visconsiniana, con tanto di Tremonti, eccetera, ovviamente, ma forse anche peggio, perché qui non ci sarà neanche la possibilità di contrattazione, di sciopero, niente, perché con questa nuova legge è tutto al bando. Questo tipo di potenziale reazione sindacale sarebbe illegale in pratica e allora senza difesa, salario ridotto, licenziamenti in massa, si profila una scuola in pratica squartata, distrutta, diciamo, chiunque non insegna il tipo di corsi che hanno a che fare con l'impiego tipo tecnico, perderanno il lavoro, quindi musica, arte, eccetera, saranno sicuramente saranno i primi campi a soffrirne conseguenze, come dice bene. Questo per quanto riguarda la scuola, poi per altri impiegati pubblici qualcosa di simile si profila. Thanks, Ben. You want to add some more to this, or should we move to the other topics? Well, we haven't really concluded with the legislative aspect of this right. until we consider what I will call the most Shakespearean part. I call it the most Shakespearean part because, rather more eloquently than I could do, Shakespeare puts in Caesar's mouth how, if you want to take power, you simply declare a perpetual emergency, and that is how Caesar got to be Caesar. I wish I could quote the speech. That is, in fact, what the governor will be doing. He has, under this supposedly fiscal bill, broadened emergency powers. When I say broadened, I mean that formerly emergency conditions were limited to 150 days with a maximum extension of 120 days. In fact, when he declares an emergency here, the only legislative oversight will be a passive review by the Joint Finance Committee, which is not required to hold a public hearing, even in the event of an objection, instead of formerly where the approval of the full legislature would have been needed to say that emergency conditions obtained. But he can do other things as well. This new bill makes elected officials prone to being replaced by fiat by the governor. I can't even quote off the top of my head the laundry list of offices that now become direct appointments answerable only to him. Wow, let me translate all this. Tra legislazione varata, cioè tra le norme varate in questa legislazione nuova, cioè ci sono addirittura degli elementi che ben piace nominare shakespeariani, nel senso di un pezzo di Shakespeare in cui c'era un personaggio che voleva diventare Cesare e fece di tutto per farlo, eccetera. Non riesco a fare molta giustizia con questa traduzione. Comunque, spero di rendere l'idea. In pratica il governatore sta accentrando il potere in maniera senza precedenti. Una cosa che fa parte di questa legislazione è che lui potrebbe estendere o potrebbe anche indire un'emergenza fiscale dello Stato di Wisconsin, in pratica quandunque vuole, cioè non ha neanche bisogno di avere il consenso della legislatura oramai, lo può tranquillamente dire lui stesso, perché ha poi un comitato, perché adesso spetterebbe a una giunta fiscale, una giunta finanziaria, non so esattamente come chiamarla, perché in Italia non so se c'è qualcosa di simile. Comunque sarebbe una giunta che in pratica è passiva, che in pratica dà lo stampo di qualunque cosa, cioè per qualunque cosa il governatore dica lo stampo di essere d'accordo o meno. Ma sarebbero d'accordo sicuramente, perché sarebbero tutti nominati comunque dal governatore stesso. Non soltanto, ma il governatore avrebbe anche il potere di sciogliere o cambiare personale, anzi scusate, la direzione degli uffici pubblici che sarebbero direttamente adesso sotto il suo controllo. Quindi leggi di emergenza fiscale che si possono estendere a piacimento senza nessuna come dire, senza nessun modo di contrastare da parte della legislatura stessa, sia repubblicana o democratica, il poter nominare e cambiare direzione di tutti gli uffici di competenza pubblica a piacimento. Cioè questo è un incredibile accentramento di potere nel governatore stesso, che è proprio senza precedenti, e quindi se questo viene seguito in altri stati veramente ci sarà un cambiamento enorme a livello anche dell'intero paese degli Stati Uniti. Quindi per quello che la, che questa battaglia ha un significato così enorme, per quello che c'è una portata così grande. Adesso continuiamo con Ben. So Ben, anything that you'd like to add before then we move to something else? I think that will suffice. That's fantastic. I mean, these are, I mean, I guess the most egregious and major aspects. Anyway, that I guess, you know, if the battle is lost, as I was saying in the translation, I wasn't really translating. I was sort of elaborating on this, that this is also why whatever happens in Wisconsin has a major consequence for the entire country. Oh yes, right. Exactly. I mean, it sets a precedent that can be repeated state by state, and then we'd have like an incredible centralized authority like never before. Fascism, I believe they call it. Yes, I was about to say that, but I have to be careful with that term, you know, with an Italian audience. Of course. I realized that. Yeah, but let me add that anyway. I'll just translate this and just kind of very briefly, and then go back to you. Yeah. Yes. Allora. L'accentramento del potere, la centralizzazione del potere potrebbe essere tale, cioè come vi stavo raccontando prima, come stavo elaborando prima da quello che diceva Ben, cioè la centralizzazione del potere sarebbe tale da portare un tipo di fascismo, cioè direttamente. Ora, ovviamente sarebbe un fascismo di stampo diverso, stampo statunitense, però è questa l'importanza di questa battaglia, perché non si è mai visto nella storia degli Stati Uniti una centralizzazione del potere, o almeno un tentativo di centralizzazione del potere di tale portata. Ed è per questo che c'è tantissimo interesse da parte sia ovviamente dell'estrema destra repubblicana che da chiunque segue con attenzione e con preoccupazione questi avvenimenti, perché veramente se questo passa nel Wisconsin potrebbe passare in tutto il resto degli Stati Uniti. E già ci sono 18 stati che stanno considerando simili norme legislative e simili cambiamenti della struttura della gestione delle competenze delle attività dello Stato. Bene, adesso ci rivolgiamo di nuovo a Ben, che ci parlerà di qualcos'altro, un attimino. Che gli pongo la questione, cioè la nuova domanda a seguire da questa. All right, Ben. So thanks for that. I guess we can move to the other question about. Well, I guess we already covered the third question about whether. You know, so, what kind of you know, the domino effect, in other words. But if you want to add more to this. I do. Okay. I have great. Studied what's happening in a few of the other states. Oh, fantastic. Thanks for doing that, Ben, because I haven't had the chance to do it myself. Sure. All right. Oh, my pleasure. All right. Okay, well, the most parallel case, I believe, is in Indiana, where they have a fellow named Mitch Daniels for their governor. Mitch Daniels? Mitch Daniels. Okay. And his style varies a little bit. He's done things like raise cigarette taxes and sales taxes rather than only gouge, you know, the working class directly. His Democratic critics, however, point out to the fact that he's gotten billions of dollars of stimulus money to balance the budget. Well, he's attempting similar legislation, but his Democratic senators have also fled to Illinois. And mass migration to Illinois. Yeah, there's a lot of Midwest senators hiding out in Illinois right now. Although I might mention that the Wisconsin 14 returned this last Saturday to a hero's welcome. That was one purpose of last Saturday's rally. Okay, I'll have to mention that too. Yeah. But yeah, that's the parallel case. I understand that Daniels has stated publicly that he's now no longer pushing to just ram it through, having seen the level of protest in Wisconsin. Ohio is another matter. Oh, before we get to Ohio, let me explain Indiana, then I can be sent to that. Thanks. Allora, si stanno già vedendo ovviamente in altri stati degli Stati Uniti dei tentativi simili di introdurre queste nuove leggi, come ha fatto Walker, l'amministrazione Walker nel Wisconsin. Ebbene, Prima di passare all'Indiana, che sarebbe uno stato vicino al Wisconsin, dove si sta cercando di fare un po' la stessa cosa come nel Wisconsin, volevo soltanto, cioè, Ben mi ha ricordato che i 14 che sono scappati, 14 senatori democratici che sono scappati e si sono rifugiati nell'Illinois, sono ritornati questo sabato scorso, ovviamente con un grande benvenuto, una grande festa, in pratica sono stati accolti come eroi, ed è stato il motivo per le manifestazioni di sabato scorso. Allora, nell'Indiana, per voltare un po' pagina, per quanto riguarda l'effetto in altri stati di quello che sta accadendo nel Wisconsin, si vede già una mossa del governatore Mitch Daniels, che da prima, dopo aver ricevuto miliardi dallo Stato federale per il cosiddetto pacchetto di stimolo economico dell'amministrazione di Obama, o forse no, forse quello dell'amministrazione Bush, quindi devo precisare un attimino con Ben di quale amministrazione si tratti a livello federale. Comunque ha accettato questi soldi senza nessun problema, però che apparentemente non è riuscito, tra virgolette, a pareggiare il conto pubblico e ha innalzato le tasse su il tabacco, le sigarette, in pratica su i beni di consumo della classe operaia principalmente, quindi classica mossa classista di innalzamento di tasse. E adesso sta cercando di trovare i consensi prima di varare o cercare di introdurre questa legislazione tipo quella adesso wisconsiniana, perché teme cioè di avere queste proteste nelle sue mani da dover gestire come il governatore Walker. Quindi già c'è una grande influenza da parte degli avvenimenti del Wisconsin in altri stati, cioè si sta riverberando un po' tutto, non soltanto il tentativo di introdurre questi tipi di legislazioni antisindacali eccetera, ma anche cioè l'organizzazione delle proteste si sta in pratica diffondendo, cioè il tipo di strategie che sono state utilizzate nel Wisconsin si stanno pure diffondendo in altri stati, quindi non è soltanto da parte della classe dirigente che avviene questo processo, direi storico, ma addirittura dall'Indiana si sono rifugiati anche dei senatori democratici nell'Illinois, quindi c'è un po' un fuggi-fuggi generale del cosiddetto Midwest, la regione dei Grandi Laghi, verso l'Illinois, che sta diventando uno stato di rifugiati politici, per porlo un pochettino magari esageratamente. Quindi ci stanno avverando delle cose nell'Indiana che sono molto simili a quelle di Wisconsin. All right, let's get to Ohio, Ben. Thanks. Okay, well, the governor there is John Kasich. He's of a similar mold to Daniels and Walker. And he has actually managed to put through some very draconian legislation. He hasn't wholly rescinded collective bargaining rights for all state workers, but he has partly rescinded them, and he's recently said that if librarians, for example, go on strike, that he will throw them in jail. What? Yes. Okay, let's pause and I'll translate that. Wow. Nell'Ohio è già stata varata la legge simile a quella di Walker da un altro governatore repubblicano, dal nome, what's the name of the governor of Ohio? I forget already. John Kasich, that's K-A-S-I-C-H. Thanks. John Kasich ha introdotto questa norma, è già stata varata dal governo statale dell'Ohio, però non è così antisindacale, è abbastanza antisindacale, però non va così a fondo come come la legge introdotta da Walker. Però per esempio se dei bibliotecari pubblici vogliono andare vogliono scioperare per qualsiasi motivo, non solo non hanno diritto di farlo, ma secondo questa nuova legge nell'Ohio il governatore ha il diritto di sbatterli in prigione soltanto per scioperare. Quindi è gravissima questa legge, proprio è assurda, ma ci sono anche altre componenti di questa nuova legge nell'Ohio che erodono dei diritti di di negoziato collettivo, per esempio. Adesso non andiamo nei dettagli, ma tanto per darvi un esempio di quello che sta succedendo all'Ohio. Sorry, Ben, you want to say more about that? Yes. The legislation barely passed in Ohio. It was a 17-16 vote, I understand. At the Senate level? Yes, correct, at the Senate level. It's divided there, but apparently there just isn't the level of popular protest and resistance, perhaps because he used only partial, you know, measures, whereas Walker is trying for everything all at once. Let me translate that then. Nell'Ohio, a differenza del Wisconsin e dell'Indiana, non ci sono state le proteste e la fuga di senatori, eccetera, che si è vista nel Wisconsin e nell'Indiana, per esempio. Il motivo, in parte, da quello che capiamo qui, è che la nuova legislazione non ha... cioè in pratica ha diviso anche i sindacati stessi molto più efficacemente e perché non ha eroso completamente il diritto sindacale e il diritto anche di negoziazione collettiva, non è completamente negato, però anche la legge è pure passata con un voto in più, 17 contro 16 al Senato, e quindi non è che ha un altissimo livello di legittimazione, meno nell'Ohio, però dato che la legislazione era meno cruenta di quella del Wisconsin, sembra che questo abbia smorzato anche il livello della protesta nell'Ohio. Thanks for waiting, Ben. Please do continue. Yeah, I do understand that there have been protests in Columbus, the capital of Ohio. Mm-hmm. In fact, I understand that there has been protests at all state capitals, including Honolulu. Wow. Yeah. ci sono state comunque molte manifestazioni, molte proteste anche nella capitale dell'Ohio, che si chiama Columbus, ma in tutte le capitali. O capoluoghi, diciamo, degli stati negli Stati Uniti, anche a Honolulu, nelle Hawaii. Right, Ben, thanks. And I mean, I could go into more detail about my personal impressions of Ohio, but I think that summarizes the situation there, really. Okay, thanks. What is your impression about Ohio? Why is it that the protest has not been as big and not as effective? When you go to the state capitol building there, there are cannons in the four cardinal directions pointing outward. Oh, are they real cannons? Yes. You're joking. I swear this on my grave. Holy crap, let me translate that. Allora, nel Campidoglio di Columbus, nell'Ohio, ci sono addirittura dei cannoni che sono rivolti verso il di fuori, quindi in pratica è un bunker il Campidoglio dell'Ohio, a differenza per esempio da quello di Wisconsin, e cioè nel senso che è molto più difficile intrufolarsi e manifestare al di dentro e cercare di impedire lo svolgimento dell'attività della legislatura, a differenza del Campidoglio a Madison. Quindi questo pure potrebbe anche incidere sulla difficoltà anche di manifestare contro questa nuova legge nell'Ohio. So I added to that I guess it's like a bunker instead of the capital in Madison. It is. In fact, across the street from the Capitol proper, there is also a sort of a small park. I think it's a tribute to veterans. It contains a very stern statue striding forward with a sword who is about to kick somebody's ass. Interestingly enough, she would be heading into the Capitol if she ever achieved true mobility. Oh, man. Allora, c'è addirittura una statua di questo. Who is it, a general that it's a statue of? It's a female spirit of war, is the best I can put it. Allora, c'era una raffigurazione femminile di un combattente, no? Raffigura la guerra. C'è la spada tratta, in pratica pronta per fare il culo a chiunque abbi l'idea di poter di voler entrare in questo Campidoglio. Cioè, c'è tutto un insieme caratteristiche sia architettoniche che ovviamente anche da quanto riguarda le forze del disordine, la cosiddetta polizia, che ovviamente sono fattori che militano contro la possibilità di occupare questo Campidoglio. All right, would you like to add some more? Well, I suppose before I leave Ohio, it's proper to mention that they've probably never forgotten the Kent State shootings. Oh, thank you. That's crucial. Let me yes. Translate that if I can. Allora, nell'Ohio, a differenza del Wisconsin, magari molta gente non si scorda dei fatti di Kent State, l'università nell'Ohio, dove addirittura c'è anche un mio ex studente che è stato accettato per fare una laurea in geografia. Ebbene, questa è una mia connessione personale a Kent State, ma non mi ricordo esattamente l'anno, quindi lo chiedo a Ben. Ben, was that in 1969 or 1970? Well, I forget the year. I recall that that was 1974. Since I've got a computer in front of me, let's just see if I can't scare up the specifics. Okay. Beh, apparentemente, adesso non ci ricordiamo la data esatta, ma quello che fecero, mi pare che fu la Guardia Nazionale dell'Ohio. Was it the National Guard of Ohio that did it? It was National Guard. Ok, la Guardia Nazionale dell'Ohio uccise diversi studenti durante una manifestazione pacifica, sparando in pratica ai manifestanti direttamente, provocando diversi morti. Questo sconcertò enormemente il pubblico nell'Ohio, ma funzionò anche come di deterrente per molti manifestanti che ebbero essenzialmente paura di manifestare, terrorizzati dall'intervento poliziesco dello Stato. Quindi questo rimane, secondo Ben, penso che sia anche se non è così magari diffuso, però certamente ci sarà un sentimento di timore che risale anche a quegli eventi sanguinari, quindi nell'Ohio è ben diverso, per esempio, da aggiungere, è ben diverso dalle condizioni nel Wisconsin, dove c'è solidarietà con la polizia. Nell'Ohio non esiste, e quindi bisogna veramente stare molto più attenti, perché ci sono precedenti di spari contro manifestazioni pacifiche. Right, was it 1974? It was 1970, as it turns out, May the 4th, 1970. Fu il 4 maggio del 1970 il massacro di Kent State nell'Ohio, contro manifestanti pacifici contro la guerra del Vietnam. Okay, should we move on, or would you like to add some more about, not just Ohio, but anything else? Regarding other states. Matter? I do have a little on some other states. Okay. I might mention that in New Jersey, Governor Chris Christie has expressed interest in doing something similar, but I gather that he is also taking his time and awaiting the outcome here. Mm-hmm. Final front to watch is Missouri. Missouri. Okay. Which, interestingly enough, it's not clear that this similar hateful bill will pass there, because the Republicans there, some of them, also oppose the bill. Ah, oh, that's really interesting. Okay, let me translate that. Allora, nel New Jersey Chris Christie sta cercando di introdurre una legislazione simile a quella del Wisconsin, però sta prendendo tempo perché vuole vedere come si svolgeranno, come si svilupperanno, cioè gli eventi nel Wisconsin, come andrà nel Wisconsin. Mentre invece nel Missouri c'è qualcosa di più interessante ancora, perché, come dice Ben, il Partito Repubblicano stesso è spaccato, quindi anche se c'è un tentativo da parte del governatore di introdurre delle norme simili a quelle del Wisconsin, non tutti i repubblicani stessi sono a favore. This thing about Missouri, that's quite interesting, because, see, my impression was that that it's basically where you have Republican governors and majorities that you have these kinds of legislations being considered or passed. But is that really the case? I do understand that there is traditionally a strong Republican presence there. Mm-hmm. I've never fully got my finger on that state, having met people from there. There's a certain skepticism I've encountered with them regarding large government and even large money. Right. That is more genuine, I think, than the contrived populism and contrarianism of, for example, the Tea Party. Right. Right. Let me translate that then. In Missouri, sembra che ci sia più un movimento genuino che è contrario a ingerenze del governo, cioè proprio ci credono, mentre cioè, a confronto del movimento del Tea Party, che in pratica è una montatura in cui cercano di fare populismo, di ottenere consensi utilizzando il fatto che una gran fetta della popolazione americana è tendenzialmente contraria a interferenze del governo. Poi magari si dovrebbe soffermare su una lunga analisi sulla storia di tutto questo, non possiamo farlo qui ovviamente, però sarebbe interessante pure farne un discorso per capire meglio quello che succede in queste circostanze qui, perché poi ci sono tante contraddizioni interne tra questo tipo di populismo antigovernativo e poi allo stesso tempo la compattezza con il governo in altre occasioni. Comunque nel Missouri sì, allora sono spaccati e per quanto riguarda la centralizzazione dello Stato e dei poteri dello Stato, e quindi non può andare a porto così facilmente questo tipo di legislazione. Ben, I'm not sure whether I missed something about Missouri that you said, but let me just add one more thing and then I'll return. Allora, per quanto riguarda il Missouri, cioè dimostra che sì, c'è questa componente populista, diciamo, contro misure di centralizzazione del governo e di interferenze statali nella vita quotidiana, però quello che avevo chiesto a Ben è se veramente è così, cioè che nel senso che in ogni stato dove c'è una maggioranza repubblicana e un governatore repubblicano si stanno cercando di introdurre leggi del genere. Infatti non è completamente così ed è un qualcosa che è orchestrato ovviamente tramite l'estrema destra del partito, e non tutto il partito è compatto con questo a livello sia nazionale sia statale. Quindi è tutto un po' da vedere anche la politica interna del Partito Repubblicano stesso, che può darsi che non ci sia una completa coincidenza tra, da una parte, queste nuove legislazioni, tipo quella di Walker, che vengono introdotte forzatamente in vari stati, e la presenza di maggioranze repubblicane in questi governi dei vari stati degli Stati Uniti. Thanks, Ben. Would you like to continue with other aspects of this? Well, that's about all I know. That okay. Pretty much shapes up the other major battles in other states. Everybody else, I think, is waiting to see what happens next. Right, okay. I'll just add that and then we can move on to the other question then. Yes. Thanks, Ben. Allora, in pratica tutti stanno cercando di capire meglio quale sarà l'esito nel Wisconsin, e qualunque sia l'esito, se l'esito è favorevole a questo tipo di introduzione di legislazione, di centralizzazione di potere, allora sicuramente almeno da quello che ne so io, almeno in 18 stati si vedrà un inasprimento di lotte e quant'altro, ma tutti stanno guardando l'esito del Wisconsin per vedere quali saranno le prossime mosse da fare, sia dalla parte di coloro che sono interessati a togliere diritti di base, a centralizzare il potere dello Stato a livello statale, sia coloro che sono interessati al contrario, a sconfiggere questa iniziativa di destra. Okay, then. So perhaps we can talk then about the unions and yes. whether they, you know, what their role is and or has been, or whether they will put a brake on these protests. I know a little bit about that already, but if you can explain that, you're much better positioned than I am anyway. And also whether their support, you know, the workers in their angers, or whether, you know, what you think will happen and why. Well, I want to make a very general philosophical comment. All right, let's start with that. Which is that with any phase of democracy, periodically the people will have to reclaim its processes and its institutions, and I think unions are no exception. Okay, let me then translate that. Ben vuole premettere che in qualsiasi situazione di cosiddetta democrazia c'è accade una volta ogni tanto che la gente deve prendere un po' le redini della situazione e rinnovare le istituzioni e quant'altro. I'm not sure whether I translated this correctly, but can you repeat it again just to make sure that I got it? Sure. Well, simply that in an actual democracy, right, the people will have to periodically reclaim its processes and institutions. Okay, then I translated it correctly. Thanks. Yeah. Sorry. And I'm sorry, go on. Oh, yes, and I don't think that unions are any exception to that. Let me translate that. I sindacati non fanno eccezione per quanto riguarda le istituzioni cosiddette democratiche, poi cioè per quanto riguarda il rinnovamento delle istituzioni stesse che deve avvenire periodicamente in questo tipo di situazione organizzazione di un paese, organizzazione politica di un paese. All right, thanks, Ben. So, with that premise, what would you like to say about the role of unions? Well, there's different unions that have played different roles. Mm-hmm. If you would have looked at the situation perhaps a week ago, it would have been almost believable that a general strike could emerge organically like so many other parts of the movement. Indeed, I am informed by some union activists that at meetings of their unions, at first, their local officials were talking in such terms. Many officials seem to have changed their mind over the weekend, and by Saturday, they were emphasizing not a general strike, but participating in the many efforts to recall the Republican politicians and to press the necessary and many court cases. Okay, let me start with that then, with the translation. Allora, dipende poi dal sindacato. Per quanto riguarda il ruolo del sindacato in queste manifestazioni, dapprima, da quello che ha appurato da esponenti sindacalisti, membri di vari sindacati stessi, amici suoi, dapprima si parlava di organizzare scioperi generali in diversi sindacati, almeno per quanto riguarda la direzione dei sindacati locali, cioè le varie componenti di sindacato a livello più basso, poi c'è il livello statale, poi anche nazionale ovviamente, sono tutti un po' federati in questo modo. Allora, però a livello locale si parlava di organizzarsi per scioperi generali. Ebbene, arrivando poi verso il fine settimana scorso, il discorso è cambiato, per qualche motivo non è ancora chiaro, ma invece di parlare di sciopero generale si parla sempre di più di partecipare invece attivamente nei processi legali contro, nei casi portati contro il governatore stesso, cioè portare in pratica Manforte ad azioni legali contro l'amministrazione e anche di organizzarsi per una votazione di sfiducia dal basso che si potrebbe fare nel Wisconsin, come hanno fatto nella California con Gray Davis e tempo fa, che poi ha portato a Schwarzenegger, quindi qui si spera che non si porti qualcuno di peggio, ma si potrebbe fare questa cosiddetta richiamata del governatore prima della scadenza del mandato e mandarlo a casa. Questa sembra la nuova strategia o la strategia preferita dai maggiori sindacati coinvolti nelle manifestazioni. Thanks, Ben. Would you like to continue, please? Yes. This isn't universally the case. The Firemen's Union is wholly radicalized. They've issued an official statement that they would back a general strike. Coming from the firefighters, of course, that is a particularly potent threat. I'd say. Let me translate that. C'è un'eccezione, sono delle eccezioni a questa tendenza, a questa svolta, a questo cambiamento di rotta dei sindacati. Il sindacato dei vigili del fuoco si è veramente radicalizzato di conseguenza di queste azioni del governatore, e allora loro preferirebbero, anzi si stanno organizzando sempre di più per scioperi generali. Questa sarebbe una minaccia ben più grossa per il governo statale del Wisconsin, ovviamente, perché se vanno in sciopero generale i vigili del fuoco durante degli incendi sarebbe abbastanza cioè conseguenze sarebbero abbastanza gravi. Ovviamente non credo che lascerebbero che incendi divampino, però vogliono usare la loro forza per cercare di piegare questo governo tramite lo sciopero generale invece di partecipare soltanto ad azioni legali. Yeah, thanks. This is really major. So is that the only union that is radicalized this way, or are there others? Well, the policemen's union too. I mean, this is amazing, isn't it, Ben? I mean, if you think about it, I mean, the ones who were exempted from the law are the ones that are most radicalized. This thing is full of little ironies like that. let me translate that aspect too, because I only talked about the fire brigade or firemen. Per continuare con le eccezioni dei sindacati che non aderiscono così tanto a questa strategia legale, per via legale, per rimuovere Walker, ebbene, il sindacato della polizia addirittura è anche almeno quasi radicalizzato da questi eventi quanto lo è il sindacato dei vigili del fuoco, e quindi c'è l'ironia che i due sindacati che sarebbero stati esentati da questa legislazione appena varata sono quelli che sono più radicalizzati e che vogliono premere fino in fondo con la strategia dello sciopero generale, mentre invece gli altri sindacati sono più protesi verso come dire, l'addomesticamento, lo smorzamento delle proteste tramite l'utilizzo delle vie puramente legali o legalistiche. Go ahead. Sorry. I might add to that that ironically also I would call the democratic legislators of the state radicalized, certainly in comparison with the more conservative labor union leaders. I've actually heard myself when I was witnessing some of the legislation how one of the assemblymen argued at length that this wasn't a passing point, that 50 years ago when collective bargaining was enshrined in Wisconsin, that what was given in return was that the state workers' unions couldn't strike. And as far as this legislator was concerned, and as far as his Democratic colleagues are concerned, because they repeated this argument, if collective bargaining is gone, the bargain is off, and philosophically and maybe even legally, state workers can now strike again. And should. Right. And this was said on the floor of the legislature. That's fantastic. By the way, I mean, they couldn't strike before, right? Right. But so long as, you know, they had the bargaining rights. Correct. Because that was also something that was imposed on us as faculty, that we didn't have a right to collective bargaining, by the way, but that's another story. We are a very special category in Wisconsin. There's a statute that says that we have no right to collective bargaining because we're part of governance. Anyway, it's a joke. But I'll explain, I guess, what you just said, which is extremely important as well, because radicalization of the Democratic Party is something that has not happened in a long time. A long time. Uh-huh. So I have to also emphasize that, because you know, most people will not know that history. So let me just break off into the translation there. Allora, quello che è giunto bene è che non soltanto i due sindacati che sarebbero stati poi esentati da questa legislazione sono tra i più radicalizzati, ma anche i delegati dell'assemblea. Io parlavo prima dell'assemblea che si formava all'interno del Campidoglio. Ci sono i delegati dell'assemblea e poi c'è il Senato. Cioè, volevo dare il quadro un pochettino più completo di come è organizzato lo Stato del Wisconsin per quanto riguarda la legislatura. Allora, l'assemblea dei delegati, tra coloro che sono democratici, l'assemblea dei delegati, c'è stata una netta radicalizzazione che in pratica non si vede da decenni nel Partito Democratico, letteralmente a livello nazionale, perché il Partito Democratico si è spostato, come ovviamente il Partito Democratico, il Partito Comunista Italiano, cioè eccetera, in altre parti d'Europa pure, sempre più a destra, sempre più neoliberista nelle politiche. Bene, invece la radicalizzazione di questi esponenti del Partito Democratico nell'assemblea dei delegati, durante gli interventi di esponenti del Partito Democratico, Ben ha sentito anche certi esponenti dire chiaro e tondo che se viene negato il diritto negoziato collettivo, allora filosoficamente, moralmente, eticamente, non c'è niente che può più negare ai sindacati di scioperare o di indire scioperi generali. Perché, infatti, questo è importante, nel Wisconsin, dagli anni 50 in poi, se non prima, adesso non mi ricordo esattamente la storia precisamente, però per decenni il diritto allo sciopero è stato negato agli operai, perché c'era il diritto, si è stabilito la garanzia, anzi, del negoziato tra sindacati e governo per aumentare i salari e quant'altro. Però con l'intesa veniva inclusa questa clausola in cui non c'è nessun diritto di sciopero. Io ho aggiunto a questo la mia esperienza personale come membro della facoltà dell'Università del Wisconsin a Stevens Point, che noi addirittura facendo parte della struttura dell'università non abbiamo tuttora il diritto non solo allo sciopero, quello è inesistente, ma nemmeno il diritto al negoziato, cioè non siamo riconosciuti come collettivo con cui si deve negoziare. Quindi ci sono anche altri sindacati che sono completamente tagliati fuori anche da questa intesa storicamente, come quelli delle università, che intanto sono sempre più precari, perché il 70% degli impiegati dell'università, cioè come membri della facoltà, sono precari e insegnano la maggior parte dei corsi. Comunque, questo a parte, la maggior parte dei sindacati hanno questo patto storico, se possiamo dire in questa maniera, in cui il diritto allo sciopero è negato, però c'è la garanzia che il governo tutela i sindacati in altri modi. Questo, una volta tolto il discorso di questi esponenti del Partito Democratico, una volta tolto questa garanzia, non c'è niente che dovrebbe ostacolare adesso lo sciopero generale. Infatti i democratici stessi sono più propense allo sciopero generale che la maggior parte dei sindacati, cioè un'altra grande ironia che si sta avvenendo nel Wisconsin. Sorry Ben for having to talk for so long and so often, it's just that I feel compelled to give more background, historical background, certainly. Social, you know, context to all of this, because in Italy, very few people actually get to know the full story about the U.S. in general, let alone Wisconsin. So anyway. Oh, really? Oh, yeah, it's really bad, including on the left. I've always assumed that Europeans are better informed than Americans, but perhaps it's a stereotype. I'm afraid so. Oh. Yeah, I wish it were otherwise. Well, you know, there's a reason why we had Berlusconi in power in Italy, right? And Jacques Chirac is still not in jail in France. Touché. Anyway. Isn't it? Yeah. Anyway, you wanted to say more about the role of unions and what's happening with that? Yeah, well, just to give a feel for where it's at with the general strike now, I have sat in on some meetings of, you know, street-level union activists who want a general strike. That there is a building coalition that wants to see that happen. Mm. And the main mood is, in fact, a degree of frustration with the more conservative unions that have... Well, what's the term I'm looking for? They sort of chilled some of the enthusiasm towards a general strike. Their rank and file members are not happy. Okay, let me translate all that then. Yeah. Allora, alla base, i sindacati che sono meno propensi allo sciopero generale, cioè quelli che stanno ostacolando la possibilità di uno sviluppo di un movimento per uno sciopero generale, ebbene, tra questi sindacati più conservatori ci sono molti esponenti, molti sindacalisti che sono frustratissimi con la dirigenza di questi sindacati, un po' come accade ovviamente nei sindacati in Italia molte volte, specialmente con le tre maggiori, CGIL, CISL e UIL, cioè tanto per fare delle analogie, magari non troppo precise, però per rendere l'idea. Allora c'è molta frustrazione, infatti addirittura Ben ha partecipato in assemblee di sindacati lui stesso, tanto per capire meglio cosa sta accadendo all'interno di questi sindacati più reticenti verso lo sciopero generale come strategia principale, e ha visto che c'è molta molta frustrazione alla base di questi sindacati, e però ci sono anche di molti esponenti dei sindacati che si stanno anche stanno comunicando tra di loro, si stanno anche incontrando per cercare di vedere bene com'è che possono fare a superare questo ostacolo che viene dalla dirigenza di questi sindacati, specialmente, se ho capito bene, anche quelli degli insegnanti, ma chiederò a Ben tra poco. It is my understanding, Ben, that the AFT is also like one of the most reticent ones, right, about... That's correct. Right, yeah, that's typical, because we were under the AFT when I was leading the union, the UU, TAUP it was called, the University of Wisconsin Professional Union. And oh, yes. We were under the AFT, and it was, to say the least, frustrating. Anyway, but that's another story. So, what else would you like to add to that? There's another. There's sort of a debate within the movement, but I think it's resolving as to whether or not a general strike or an attempt at recalls and court cases is a superior route. Mm-hmm. At first, there was some view, more so from the general strike view, that these were competing processes that threatened to take one another's energy. Mm-hmm. I'm of the opinion that there should be a parallel track, and I believe that idea has been getting through of late, and that a potential rift has managed to close itself before it really develops. But there were a few worrisome days there just over the weekend. Oh, thanks, Ben. Actually, that makes me very pleased. I was just discussing that with Deb, you know, like hoping that people will see that you need both, probably. Strategies. And boycotts. Exactly. Boycotts, yes. Are they talking about boycotts as well? Oh, yes. I can name names. Oh, yeah, yeah. Marshall and Eiley, right? Yeah, we protested outside them just yesterday, and we'll be back again a week from yesterday. Okay, let me recap all this in Italian then. Yeah. Allora, Ben è venuto a sapere anche, non soltanto tramite la sua partecipazione diretta nelle assemblee sindacali, eccetera, ma anche tramite tutti i componenti di questo movimento che si è in pratica costruito attorno a questi avvenimenti, sia nel sindacato che ben oltre il sindacato, o la sfera sindacale. Ebbene, da prima si stava spaccando un po' il movimento in queste due strategie, cioè c'era il timore che la via legalistica, se intrapresa, indebolirebbe la via dello sciopero generale, ma sempre di più, discutendone, dibattendone all'interno dei sindacati, tra esponenti sindacali e il resto del movimento al di fuori del sindacato, che è enorme veramente, si sta vedendo sempre di più a convergere verso il vedere queste strategie non come antitetiche, ma come strategie parallele che si possono intraprendere senza temere che una contrasti l'altra o una indebolisca l'altra strategia. E infatti si sta proprio convergendo verso questo, che potrebbe essere veramente qualcosa di molto promettente, ma oltre questa convergenza di pensiero strategico, per metterla così, ci sarebbe anche una terza strategia che sta sempre più avendo consensi, e questa strategia sarebbe il boicottare le compagnie che hanno finanziato la campagna elettorale dei repubblicani responsabili per questa legislazione da obbrobrio, e questo sta prendendo sempre più quota tra coloro che partecipano in questo movimento che si sta espandendo un po' in tutto il Wisconsin e oltre. Adesso torniamo a Ben e vediamo cos'altro vorrebbe aggiungere su questo. So Ben, would you like to add some more stuff about these strategies and how they're coming about? Well, as I've alluded to, we have a very useful law, have had it since 1911, for the recall of politicians. 1911, okay, that was like La Follette. Yes, period. Exactly. Right, okay. It's not an accident. No, of course, yeah. And a politician has to be in office a year before they're eligible for recall. Right. So we would not be able to get rid of Governor Walker until sometime next January, but we're already at work on it. Great. Equally, there's 8 Republican legislators who have already been in office a year, and there's efforts in all of their districts to recall them. Mm. The current statistics suggest that 3 of them really need to break a sweat, but that would be enough politically to change the voting, in fact, on the legislative floor. Wow. Yeah, so there's hope there. Then, I can't begin to emphasize the number of times that they've tried to vote with the Democrats absent, the number of sudden flash votes that they've pulled, the way they restricted access to the Capitol. In short, it's not clear that the legislation was legally passed. Mm. It's far from clear that the new restricted access to the Capitol is in any way legal. Right. Then, can I stop you there so I can translate? Sure. Thanks, I don't want to interrupt your thought too much, but yeah. I guess I'll try to recall everything you mentioned. It's really, all of it is so important. Okay. Yeah. Allora, come dice Ben, già la via della sfiducia dal basso sembra che stia avendo i suoi frutti. Comunque la legge, per quanto riguarda la richiamata dei delegati o dei senatori, è vigente dal 1911, dall'era progressista del Wisconsin, in pratica l'era in cui c'era tipi come la Follette, che erano, cioè Fighting Bob, come lo chiamavano, in cui c'erano molti, cioè non molti, ma diversi radicali al governo che introdussero, addirittura anche dei sindaci socialisti come Milwaukee, roba del genere, all'epoca. poi vengono spazzati via non solo col meccartismo ma con altro pure. Ma comunque da quel periodo fu introdotta durante quel periodo fu introdotta questa legge in cui si può sfiduciare un rappresentante al governo se non rappresenta il proprio distretto elettorale. Allora, in base a questa legge del 1911, si stanno organizzando diversi gruppi per richiamare e mandare a casa tutti i rappresentanti repubblicani al Senato e anche all'Assemblea. Però il mandato del repubblicano, cioè il governatore repubblicano, ovviamente è molto più lungo perché è appena entrato in ufficio, però secondo la legge dopo un anno si può cominciare a richiamare un rappresentante come per esempio Walker. Però Walker è appena iniziato, quindi non si può richiamarlo fino all'anno prossimo, mentre invece ci sono degli altri repubblicani che sono già da un anno e oltre al governo e loro in pratica stanno sudandosela perché adesso ci sono pressioni per richiamarli, per farli mandare via dai loro uffici. Per tre almeno sembra che stia funzionando e questo potrebbe portare a una svolta per quanto riguarda quello che voteranno in futuro sia nell'Assemblea sia nel Senato. E poi adesso torno a chiedere a Ben per quanto riguarda il resto delle strategie e cos'è che si sta mettendo insieme. Sorry Ben, I got through the recall aspect, but then you had added something else besides the recall of the Republicans That there's also a legal aspect. Thanks for reminding me. I'll just translate that now. Allora, c'è anche un aspetto legale che avevamo già menzionato prima, avevamo già descritto prima, per quanto riguarda il diritto di accesso al Campidoglio che è stato negato dopo un po' ai manifestanti, lo svolgimento delle votazioni all'interno della legislatura stessa, che è stato fatto in maniera almeno sulla carta illegale. Allora, ci sono diversi aspetti di illegalità praticata da questo nuovo governatore e all'interno del Senato e dell'Assemblea e stanno portando avanti diversi gruppi con aiuto di sindacati pure, ma diversi componenti della società di Wisconsin, la cosiddetta società civile, per usare un termine purtroppo comune, che non vuol dire un granché, però tanto per rendere l'idea, e stanno portando avanti queste cause alla corte, penso quella superiore, la corte a Cassazione del Wisconsin per esempio, perché sono tutte attività che veramente possono essere riconosciute come illegali, e se questa sarebbe un'altra via per mandare a casa questi rappresentanti che non rappresentano nessuno eccetto per pochi, specialmente ricconi, e mandarli a casa. Thanks for waiting, Ben. Would you like to add more to this? Well, there's a critical election in this regard coming up for a circuit court judge. Oh. The current incumbent is a David Prosser, who has been as much as quoted as saying that he will give Governor Walker anything he wants. This is a man with next to no judicial or even legal experience. I gather he's got a law degree, but he's generally understood to be a political hack. Mm. And he's going to be contested and, we think, beaten by a Barbara Kloppenberg. Uh-huh. No, that's not her name at all. It's Kloppenberg. I've forgotten her first name. God, that's awkward. Anyway, she has quite a great deal of courtroom and advocacy experience, and she is just as outraged as the rest of us, and the perception is that April the 5th is when we begin to take our judiciary back. Okay, so the judiciary would be at the state level, right? Not the district judges, right? That's correct. It's a state justice, judiciary. It's a state justice, yes. Okay. Let me translate that then. C'è un altro sviluppo molto interessante, che nei prossimi mesi ci sarà l'elezione. Negli Stati Uniti i giudici vengono eletti, certo per la Corte Suprema federale i giudici vengono eletti anche a livello statale, quindi l'istituzione giudiziaria potrebbe avere un mutamento di personale. E la campagna elettorale che si sta svolgendo adesso è tra due contendenti: uno è Prosser, che è un alleato in pratica di Walker, del repubblicano Walker al governo, e in pratica è stato anche ha fatto anche dichiarazioni alla stampa in cui dice esplicitamente che qualsiasi cosa il governatore vuole lui lo farà come giudice. Questo ovviamente penso che adesso potrebbe essere molto controproducente per la sua elezione come giudice della Corte statale, la Corte di Cassazione statale, mettiamola così, del Stato di Wisconsin, e potrebbe invece avere il sopravvento l'altra giudice che fa da concorrenza in questa campagna elettorale, la Kloppenburg, che ha molta più esperienza comunque come avvocato, come giudice eccetera e quant'altro nel sistema legale del Wisconsin, e quindi sembra anche favorita addirittura a prendere il posto che è stato, adesso non mi ricordo chi è che era il giudice prima, ma di prendere il posto del predecessore e di capovolgere anche il sistema giudiziario a favore dei democratici, a favore anche delle decisioni che potrebbero avvenire riguardo l'illegalità delle azioni prese dal governatore stesso e dai repubblicani stessi a livello di Senato, per esempio, che ho già citato prima. Ben, would you like to continue with other information about this? Or have we exhausted basically most of... Wow, I'm just looking at the clock. It's been 2 hours. Wow, an interview of 2 hours, Ben. I'm so sorry. Oh, no, it's been my pleasure, very much so. Yeah, you're very kind. I'm just glad to get the word out. I think the world needs to know about this stuff. No, that's actually, I mean, that's what has compelled me to do this as well. I just happened to have a friend in Radio Onda Rossa, and they're interested there, very much so. And the kind of news that we get in Italy, are very superficial about this, and so people don't really understand the gravity of the situation and the grave consequences of not winning this battle. Right, right. Wow. Yeah, they really don't understand what's at stake. But you know, there's a stereotyped version of the United States that we live in Italy, and it's really depressing in a lot of ways. Like when I return to my country, I have to explain, look, this is not what you've been told in the papers. The things here are much livelier than... We're not all sheep around here. right, certainly. It's never been the case, you know. Don't get that impression just because the papers never report on what the left are doing here. It's just amazing. But anyway, that's why an really... eye-opener. Oh, I'm sorry to have that kind of eye-opener. But it gets me mad, because sometimes I feel compelled to write to the papers and say, what are you talking about? Just come here and get some information that, you know, stop getting it from the New York Times and the Washington Post and start digging up some, you know, actual news. Yeah. You know, sometimes it's that level of reporting. It's like I'm reading the mainstream papers in Italian. Oh, wow. You know, what the hell? And this would be on like, left-wing papers. So I was just... I'm frustrated. So this is wonderful. Yeah. Now that you mentioned Berlusconi is a media magnate, yep, isn't he? Yep. No, exactly. Yeah, and not only that, but he's also he started off with not just the media, but also with the financial sector being his bigger monopoly still. Yeah, Fininvest. So you have the a huge monopoly of the financial sector, coupled with the media sector, and now he has the state television as well. You can imagine the kind of power that he wields. But yeah, that's another story, I guess, I could go at length about. But anyway, Ben, I mean, how are you holding up? I mean, it's with all this. Oh, well, it's like having a new lease on life, to be honest. I mean, I've been deeply cynical for decades. Yeah, well, I can't imagine why. yeah. I mean, we both survived the '80s. I think we're in the same generation. Exactly. Yeah. And like when that didn't stir people up, I wondered what would, in fact, before this began, I remember one of the most frequent conversations I would have with anyone I know is our common astonishment at the apparent lack of any capacity for outrage anymore. Yeah, yeah. And that's true. I mean, that's also my feeling. So I'm really inspired by what's going on there now. I wish I were in Wisconsin. Yeah. Oh, man. I think I got to get going, unfortunately. And I hear the phone ring off the hook like several times. I'll pick it up another time. But I can't thank you enough, Ben. I can't thank you enough. This has been great. A real pleasure. And thanks also for the poetry, by the way. Oh, well, that was my pleasure as well. Kind of like, you know, well, one of those pleasures where you stop hitting your head on the wall, but still, a pleasure. You know, actually, I hope you don't mind, but I when I was translating, when you gave your biographical introduction, I did mention that we published your poetry so that people will go and look at it, okay? I mean, I think it's good. Oh. Anyway. I should get going, I'm sorry. And thanks so much. Yeah, okay, well, thank you. I hope we get a chance to speak again soon, anyway. I'm going to be leaving for Hungary soon, but anyway. Oh. You take care. You too, ciao. Ciao. Thanks, Ben.